Il punto di Stefano Folli. Ha fatto la cosa giusta Bersani a garantire che le primarie del Partito Democratico saranno aperte, cioè senza vincoli e barriere tali da proteggere un candidato privilegiato, in questo caso lo stesso segretario? Giunti a questo punto sarebbero inammissibili trucchi del genere. C'è un bisogno assoluto di competizioni elettorali chiare in cui i cittadini siano in grado di scegliere i loro rappresentanti. Del resto la pantomima che accompagna la riforma elettorale sul piano nazionale non solo è estenuante, ma sta facendo un danno gravissimo a quel che rimane della credibilità del sistema. Figuriamoci se anche le primarie di un partito, una volta decise, fossero, diciamo così, sterilizzate. D'altra parte il fenomeno Renzi ormai è esploso e non si può chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Anzi, il prossimo passo di Bersani dovrebbe essere quello di frenare quell'inutile corsa agli attacchi personali contro il sindaco di Firenze da parte di tutto l'establishment del PD. Rosi Bindi lo ha persino accusato di essere poco rispettoso. Questa sembra davvero la strada migliore per assicurare un trionfo al giovane sfidante.